Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, continua a Roma la mostra dedicata a Giovanni Bellini, uno dei grandi artefici della pittura italiana alle soglie del Rinascimento, e di Rinascimento vi voglio parlare di una fase successiva, di quella diciamo trionfante, che è descritta nel libro 1545, Gli ultimi giorni del Rinascimento di Antonio Forcellino. Il libro è pubblicato dalla Terza, 260 pagine, 19 euro. L'autore è un grande esperto di questo periodo dell'arte, del Rinascimento, ha restaurato tra l'altro una delle opere più importanti di quel periodo, cioè il Mosè di Michelangelo, e sostiene qui che quello, il 1545, fu un anno fatato o fatale. Arriva infatti a Roma Tiziano, che vi avrebbe dipinto una delle sue opere più famose e contribuito così a completare il firmamento dei geni che in quei mesi davano un'impronta assolutamente irrinunciabile al Rinascimento, e cioè Michelangelo, Antonio da San Gallo il Giovane, Giorgio Vasari e lui stesso Tiziano. Dopo quella concentrazione di geni che appunto segnò l'apice dell'arte rinascimentale, riconoscibile per molti versi proprio nell'opera romana di Tiziano di cui adesso parleremo, il Rinascimento, dice Forcellino, avrebbe cambiato carattere e si sarebbe in qualche modo involuto. Facciamoci spiegare le ragioni dall'autore. Buongiorno ad Antonio Forcellino. Buongiorno anche a voi. Professor Forcellino, nel suo libro lei colloca nel 1545 una sorta di data di svolta, quella a partire dalla quale gli artisti avrebbero cambiato molto il loro carattere, modificando radicalmente anche quella che era stata l'evoluzione del Rinascimento. Lei scrive infatti che il carattere primario era stato il coinvolgimento degli artisti nella creazione di un nuovo modello sociale ed istituzionale. Tutto questo nel 1545 non finisce proprio quell'anno, ma insomma quello è un anno simbolo per sottolineare la svolta in cui gli artisti perdono molto della loro libertà creatrice. In che senso? Diciamo che cambiano anche i committenti, perdono la loro libertà creatrice perché soprattutto gli stati con il papato, con la Controriforma, chiede un ruolo diverso, chiede non più una partecipazione sperimentale, ma chiede di aiutare a sostenere un po' l'azione di governo, diremmo adesso, e quindi gli artisti diventano un po' degli illustratori, cambia un po' il ruolo che loro avevano avuto nella società rinascimentale. E una delle opere capitali di quel 1545 è il ritratto di Tiziano a Paolo III e la famiglia e ai nipoti. Un ritratto che in qualche misura è anche un messaggio politico, mi pare di capire. Sì, lo è totalmente, rappresenta uno dei punti più alti della collaborazione tra l'arte e il potere, ma il fatto più interessante è che questo ritratto è al centro di una leggenda che un po' spiega anche il nostro Rinascimento. In qualche modo a metà dell'Ottocento nasce la leggenda secondo la quale Tiziano in questo ritratto avrebbe colto i malumori della famiglia, l'avrebbe fermati sulla tela e sarebbe stato punito per questo. Naturalmente la leggenda nasce dalla volontà moderna di fare del nostro Rinascimento un teatro di buoni e cattivi. Tiziano è il buono, i Farnese sono i cattivi, perché l'artista, secondo una concezione un po' moralista che però nasce appunto un secolo fa, deve essere sempre buono. In realtà la vicenda non è andata così, anzi in questo caso è quasi il contrario. Tiziano insegue un progetto molto scaltro, un progetto suo, diremo, di nepotismo personale. Insomma, realizza questo ritratto meraviglioso per i Farnese, che ne sono felicissimi, solo che poi il ritratto ha un problema tecnico che non spiegheremo, perché è un po' anche la sorpresa del libro, e diciamo viene danneggiato per questi vizi di origine e svia l'interpretazione che ne è stata data nei secoli successivi. E lei, a proposito del quadro, mette in luce la grande abilità di Tiziano nel separare il giudizio morale dalla prestazione professionale dei ritratti. In questo senso è un quadro machiavellico questo di Tiziano? Sì, io credo che questa capacità di separare la moralità dalla professionalità è un tratto comune a tutti gli artisti rinascimentali. tranne a Michelangelo nell'ultima fase della sua vita. Michelangelo va ancora oltre il Rinascimento, è un caso un po' a sé stante, però Tiziano in questo ritratto sicuramente compie un'opera bellissima di santificazione di personaggi che lui sapeva abietti, di cui conosceva tutti i difetti, però è un po' come un Warhol, un antesignano in questo senso della celebrazione estetica. Senta, a proposito della svolta che poi succede della pittura controriformistica, che appunto annulla quella che era stata questa ansia di libertà e di ricerca dell'autentico Rinascimento, lei parla a un certo punto dei Sacri Monti dicendo che questi sono stati condannati all'oblio e al ridicolo. E qui in Lombardia noi siamo molto affezionati ai nostri Sacri Monti. Siete molto affezionati, però io nelle mie peregrinazioni non ho visto una grande ammirazione, una grande commozione, c'è curiosità, forse anche una certa devozione popolare, però sono fruiti anche come un teatro un po' grottesco e io devo dire sono stato a Orta l'anno scorso e devo dire sono rimasto molto perplesso di fronte a questa pittura che attualizza in maniera un po' grottesca la storia. Vedere un San Francesco spagnoleggiante, devo dire, è molto, non l'ha lascia convinto. Molto perplessi. Bene, ringraziamo Antonio Forcellino nell'attesa allora di vedere gli affreschi restaurati. Grazie a voi, arrivederci. E ho chiesto a Marco Carminati di illustrarci le caratteristiche di questo famoso triplo ritratto del Tiziano. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Il 1545 fu per Tiziano davvero un annus mirabilis, un anno pieno di impegni. Era arrivato appunto nella capitale del papato, a Roma, ed era diventato subito uno dei pittori favoriti della famiglia più potente, quella dei Farnese. Tra i vari dipinti che riesce a realizzare in questo anno di attività a Roma ce n'è uno veramente importante e imponente. Si tratta del triplo ritratto della famiglia Farnese, con al centro il Papa Paolo III Farnese e ai lati due nipoti del Papa, che sono uno il cardinale Alessandro Farnese e l'altro il giovane Ottavio Farnese. Chi erano questi due nipoti e perché questo quadro è concepito in modo così magniloquente? Beh, questo è veramente un quadro che rappresenta un messaggio politico. Il pontefice è raffigurato seduto, vecchio, tutto ricurvo, ma con lo sguardo estremamente vispo, e i due personaggi che gli sono alle spalle sono il messaggio che il pontefice vuole dare. Da un lato, sul fronte della politica ecclesiastica, egli indica Alessandro Farnese come possibile successore al papato. Dall'altra parte, inchinato in modo quasi servile, si vede appunto il nipote Ottavio, al quale, secondo l'intendimento del pontefice, dovrà andare il feudo di Parma e di Piacenza, perché i Farnese fecero una cosa inaudita per la storia del tempo, cioè presero una parte dello stato pontificio e lo affidarono a un parente, in questo caso al fratello del Papa Pierluigi e poi al nipote Ottavio. Ora però questo dipinto, che si trova a Napoli nella galleria di Capodimonte, stupisce per alcuni aspetti. Intanto per la qualità della pittura, è dipinto molto velocemente, quasi modernamente oserei dire, ma c'è un aspetto che colpisce: il dipinto è incompiuto, manca la mano del pontefice, per esempio non si appoggia nulla al tavolo. Perché Tiziano lascia incompiuto un quadro così importante? Naturalmente le risposte sono molte. Tiziano rimase poco a Roma e quindi probabilmente fu costretto a lasciare altre committenze in sospeso, però un quadro così importante è strano che non sia stato finito, e probabilmente si tratta di un motivo politico ulteriormente. Noi sappiamo che il Papa si scontrò violentemente con il nipote laico e a un certo punto lo diseredò dalla successione del ducato e puntò su un altro nipote che si chiamava Orazio, quindi probabilmente questo dipinto improvvisamente diventa inattuale secondo il messaggio che doveva dare, quindi viene messo da parte, non viene completato, resterà nella famiglia Farnese per lunghi anni, fino a che all'inizio del Settecento, diventando erede della famiglia Farnese, Carlo III di Borbone viene portato a Napoli con tutta la meravigliosa eredità Farnese, e oggi noi lo ammiriamo appunto in una bellissima sala, tra l'altro con altri bellissimi ritratti della famiglia Farnese al piano nobile della Galleria di Capodimonte. Di Antonio Forcellino, sempre la Terza Repubblica, Raffaello, Una vita felice, 352 pagine, 11 euro. Questo è un libro che si colloca sulla stessa linea interpretativa di cui abbiamo parlato, benché morto 25 anni prima, nel 1520. Infatti, Raffaello illustra, secondo Forcellino in questo libro, quella breve stagione della storia occidentale, quella del Rinascimento romano, nella quale i conflitti tra spirito e religione, individualità e collettività restano miracolosamente sospesi, liberati da vincoli ideologici. Una stagione, conclude, che appare molto più libera da questo punto di vista di quella attuale. Il confettino. Restiamo in argomento, concludendo questa incursione nell'arte con Arte per bambini, scritto e illustrato da Gabriel Martin Roig e pubblicato da Editoriale Scienza, 23,90 euro, tradotto da Chiara Cacucci. Questo è un bel libro sulla storia e le tecniche dell'arte che permetteranno ai ragazzi di cogliere i segreti della pittura e della scultura, partendo dall'arte rupestre fino a quella pop. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso alla narrativa e comincio con un romanzo di Evelina Sant'Angelo, Senza Terre, pubblicato da Einaudi, 174 pagine, 12,50 euro. L'autrice è una scrittrice di Palermo che affronta qui in parallelo due storie che fanno capo allo stesso spunto, quello dello sradicamento. Da un lato abbiamo infatti Gaetano, un ragazzo siciliano che resiste alla proposta del padre di raggiungerlo in Germania per aprire un'attività commerciale. Vuole rimanere nella sua terra, non allontanarsi dalla tomba della madre. Dall'altro lato abbiamo Ali, scaraventato sulle coste siciliane da un barcone proveniente dal Nord Africa, salvato da un vecchio contadino e poi spedito a lavorare nei campi in condizioni di semi schiavitù. E il destino dei due si congiungerà nelle ultime pagine del libro in una vicenda drammatica nella quale naturalmente fa capolino anche la cosca che controlla il lavoro degli extracomunitari. E questo libro ci dà l'immagine di una Sicilia tutt'altro che folcloristica o agiografica, anche per la descrizione molto partecipata e dolente delle condizioni di tanti giovani divorati dall'assoluta mancanza di prospettive o dalla tragica constatazione di non poter fare nulla per modificare un destino che alla fine finisce per favorire solo i prepotenti e i criminali. Passiamo alla Spagna, anzi alla Catalogna, da dove viene Quim Monzó, autore de Il migliore dei mondi, ancora pubblicato da Einaudi, 226 pagine, 14 euro, tradotto da Glauco Felici. Si tratta di 14 racconti basati tutti su situazioni apparentemente assurde che contribuiscono a esaltare l'umanità assolutamente normale dei protagonisti, proiettati spesso in situazioni drammatiche o tragiche o comunque fuori dal comune. Magari talora sono delle situazioni apparentemente normali, come l'acquisto di 5 zeppe per non fare sbattere la porta, che però assumono una dimensione fra l'onirico, il trasognato, il metafisico, che danno a queste pagine un carattere veramente particolare. Sentite per esempio l'inizio del racconto che si intitola Quando la donna apre la porta, un'immagine quasi metafisica nella quale sta per consumarsi un dramma facilmente prevedibile di una donna che avrà però una conclusione sorprendente. Quando la donna apre la porta del terrazzo, il sole inonda tutto. Le piastrelle rappezzate qua e là di tela catramata, il cielo azzurrissimo e i palazzi dell'altro marciapiede, attraverso le cui finestre si vedono le scrivanie degli uffici, quasi tutti vuoti, perché è mezzogiorno e la maggior parte delle persone è andata a mangiare. Lei pure, gli altri giorni, mangia a quest'ora. Ma oggi no. Oggi, a passi lenti, si avvicina al parapetto. Le arriva al ventre. Allunga il collo e guarda verso il basso. I pedoni non sono esattamente formiche, come dice la gente, ma piuttosto simili ai pupazzetti che vengono posti nelle stazioni dei modellini dei treni elettrici, quelli con tutti i dettagli. Strade, montagne, villaggi, cartelloni pubblicitari, fiumi, un uomo con valigia e cappello, una donna seduta e con la gonna arancione, il capostazione con il berretto e la bandierina sul punto di autorizzare la partenza del treno. Le auto le vede tanto piccole che le è impossibile identificare i modelli e le marche. Quanto ci sarà fino all'asfalto? Un centinaio di metri? Forse qualcosa di meno, o forse molto di più. Come può saperlo? Fa lo stesso. È più che sufficiente. Restiamo nella penisola iberica, ma in Portogallo, con la voce più importante di quel paese del Novecento, Fernando Pessoa, di cui Guanda ripropone una delle opere più note, Il banchiere anarchico e altri racconti, 110 pagine, 10 euro, tradotto da Leopoldo Carra e Claudio Valentinetti. Il primo di questi tre racconti è appunto una delle opere più famose di Pessoa, è del 1922 ed è un dialogo nel quale un banchiere illustra razionalmente come un appartenente alla sua categoria possa essere e rimanere anarchico in quanto ansioso di trovare la più ampia e personale libertà possibile senza sentirsi in contraddizione con la propria professione. Infine veniamo a uno dei successi più clamorosi e travolgenti della narrativa di questi ultimi decenni, Harry Potter, letto pare da oltre 400 milioni di lettori in tutto il mondo. Vi propongo due libri su Harry Potter. Il primo è di Simone Regazzoni, Harry Potter e la filosofia, pubblicato dal Melangolo, 128 pagine, 11 euro. L'autore spiega che quella di Harry Potter è tutt'altro che una saga banale e commerciale, ma rappresenta invece un'opera che merita rispetto. Anzi, scrive Regazzoni, è un'opera d'arte della cultura pop di grande complessità e bellezza e una risorsa straordinaria e potentissima per l'esercizio della filosofia. E nel suo libro Regazzoni spiega quali sono queste questioni filosofiche che possono nascere dalla lettura del ciclo di Harry Potter, a partire dalla prima, forse la più importante, se esista un solo mondo, come spiega in queste righe. Mettere in discussione ciò che sembra evidente, vero, indubitabile, incontrovertibile. Provare a pensare che le cose, persino l'intero mondo, potrebbero essere diversamente da come sono e ci vengono mostrate, e in fin dei conti raccontate, lavorare di fantasia in un certo senso, è un essenziale esercizio per allenare la mente a praticare insoliti e pericolosi pensieri e cominciare così a filosofare. La saga di Harry Potter, benché non sottoscriva la tesi platonica di un mondo delle idee celato dietro il mondo delle apparenze, inizia proprio con la messa in questione radicale della credenza secondo cui esisterebbe un solo mondo, il presunto mondo normale, antimagico e razionale, in cui orgogliosamente vive e di cui è la triste espressione la famiglia Dursley. E fin dall'inizio, dunque, la portata etico-politica dei romanzi della Rowling emerge in tutta la sua forza e singolarità. Niente di più necessario, infatti, che decostruire l'idea dell'esistenza di un solo mondo e imparare a esistere in più di un mondo. E poi naturalmente ci sono tante altre questioni filosofiche, fino a quella della giustizia che emerge dalla saga della Rowling come idea di una radicale apertura all'altro come riconoscimento. I giusti, scrive Regazzoni, in altri termini, sono coloro che lottano per il riconoscimento infinito di altri mondi, perché l'altro è sempre un'altra origine del mondo. L'altro libro dedicato a Harry Potter è di una studiosa francese, Isabelle Cany, esperta di letteratura per l'infanzia, che ha pubblicato con Bruno Mondadori Harry Potter o l'anti-Peter Pan, la magia della lettura. 292 pagine, 22 euro, tradotto da Ximena Rodriguez. Harry Potter, scrive l'autrice, è un'opera fenomenale. Anche lei condivide un giudizio molto positivo su questo ciclo e scrive: con Harry Potter i bambini si sono abituati a leggere libri lunghi e voluminosi per lo stupore di parecchi pedagoghi, ma questi libri passano di mano in mano e riescono a coinvolgere anche un pubblico adulto. Questo è il vero mistero, la vera originalità della Rowling. E qui nasce il parallelo con Peter Pan. Infatti scrive l'autrice che se James Barry, che è l'autore di Peter Pan, è riuscito a dare vita a un mito, è perché è riuscito a dare forma a un'ossessione universale che ci accomuna tutti, l'ossessione naturalmente di non voler uscire dall'adolescenza, di rimanere sempre giovani. E come Harry Potter, Peter Pan parla al bambino e all'adulto. Scrive la Cany, il bambino si confronta con la propria paura di crescere, mentre l'adulto si misura al contrario con il desiderio di tornare indietro alla propria infanzia. Invece Harry Potter fa il percorso inverso, conduce verso l'età adulta. Harry Potter infatti non muore come molti speravano o temevano alla fine del ciclo della scrittrice inglese, e non muore proprio perché questo avrebbe segnato l'eterno incardinare del mito di Harry Potter a quello della gioventù. No, Harry Potter non solo cresce ma è capace di crescere, e conclude l'autrice, egli ci riporta verso la vita che è finalmente finalmente diventato una grandissima avventura. Non c'è niente di più grande che provare in un mondo come il nostro a uscire dall'infanzia eterna. Quindi il rovesciamento dell'approccio che ha reso immortale Peter Pan, quello di voler rimanere sempre giovani, Harry Potter invece è capace di crescere. Scrive infatti Lacani: Capitan Uncino e Lord Voldemort rappresentano un'unica figura. Voldemort è un clone di Capitan Uncino, e più precisamente un Capitan Uncino che la società ha deciso di trasformare dall'emarginato fuorilegge che era in un essere onnipotente. Un Capitan Uncino più pericoloso, insomma, e anche meno umano. Quindi in queste difficoltà, le difficoltà di affrontare il male, si cimenta Harry Potter e conquista la propria maturità. Con questo ringrazio Laura Marchese e Laura Faggin in redazione, Giacomo Spunti in regia. Passo la linea a Respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.